Mazzette al Veneto, aiuti sostanziosi e diviati arriveranno, dice, con la finanziaria. Più di 7 milioni e mezzo di spettatori per il programma Fazio Saviano, uno scoppiettante Benigni. Il crollo a Pompei, napolitano, il dissesto idrogeologico non può giustificare i crolli. Il Nobel per la pace che incorona Roberto Baggio per il suo impegno per la pace e la solidarietà. Ancora una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dalla visita del presidente Berlusconi in Veneto. Ci colleghiamo dunque con il nostro Simone Spezia. Simone. Sì, buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. Appena finito il vertice in prefettura Vicenza, al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ma c'era anche il ministro e leader della Lega Umberto Bossi, nonché il presidente del Veneto Luca Zaia, il quale ha confermato l'impegno di Berlusconi a garantire tutti i fondi necessari al Veneto per sostenere l'emergenza. Tra l'altro Bossi ha detto proprio poco fa che garantirà lui stesso con Tremonti. Berlusconi aveva promesso in mattinata un aiuto sostanzioso e immediato, un aiuto che Zaia continua a quantificare nel miliardo di euro circa. Per quanto riguarda la politica, Bossi ha finito di parlare proprio 2 minuti fa all'uscita dalla prefettura, è tornato sul tema del mandato ricevuto tanto da Berlusconi quanto da Fini per trattare e ha detto: ieri ho visto uno spiraglio, anzi uno spiraglietto. Per il momento da Vicenza è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Simone Spezia. Aiuti dunque a cittadini ed imprese oppure sarà sciopero fiscale? Forse lo ricorderete, lo aveva detto ai nostri microfoni Luciano Vescovi, vicepresidente dell'Unione Industriale di Vicenza qualche giorno fa, lo ha ribadito questa mattina al microfono di Oscar Giannino. Non vogliamo nessun pianisti estero, vogliamo solo dire, il messaggio chiaro era questo, sono 40 anni che con volontà, con determinazione contribuiamo a sostenere l'Italia con il nostro manifatturiero, siamo pronti a farlo ancora, però adesso per cortesia un po' di attenzione e un po' di attenzione verso una terra che non chiede nulla di particolare, chiede che gli venga restituito una parte di quello che ha dato negli ultimi 40 anni. Quindi ringraziamo anche le istituzioni che sono venute qui, il sottosegretario Bertolaso è venuto qui subito, è tornato dopo qualche giorno, oggi vengono Bossi e Berlusconi e li ringraziamo, così per loro, per noi è positivo perché dimostrano che c'è attenzione per il Veneto, è positivo anche per loro perché da pagina 40 del giornale di Vicenza, dove erano stati piazzati nelle ultime settimane giustamente dal direttore, sono passati a pagina 1, però tornano a pagina 40 se ricominciano a occuparsi di cretinate invece che di cose serie. E allora sentiamole le parole di Berlusconi pronunciate questa mattina in Veneto. Di reazione che fa veramente bene. In finanziaria ci sarà l'aiuto, lo mettiamo direttamente nella finanziaria, che verrà adesso stabilito con i primi aiuti che saranno immediati. Poi sull'entità dovremo prima fare l'elenco dei danni e su questi danni ci sarà l'intervento dello Stato. Partita sempre più importante dunque, quella che si gioca sulla finanziaria. Fra poco incontro fra il ministro dell'economia Tremonti e i capigruppo, ce ne riferisce Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, il ministro dell'economia accelera dunque sulla manovra economica, nel primo pomeriggio ci sarà l'incontro con i capigruppo della maggioranza, PDL, Lega, Futuro e Libertà e Movimento per l'Autonomia. L'incontro è stato convocato per stilare un elenco di priorità di spesa con l'obiettivo di far quadrare i conti con le tante richieste, tra queste ricordiamo i fondi per l'università, per la ricerca, per l'emittenza locale e da ultimo gli stanziamenti per le zone alluvionate del Veneto. Il Tesoro ha già dato la sua disponibilità su alcune cifre, 1 miliardo per gli Atenei, poco meno per la defiscalizzazione dei salari di produttività. Soldi arriveranno per gli ammortizzatori sociali, la ricerca, il 5 per 1000 per alcune misure di spesa che verranno prorogate. Domani comunque il governo dovrebbe mettere tutto nero su bianco con un emendamento alla finanziaria che arriverebbe quindi in aula il prossimo martedì. Le incognite restano tuttavia molte, intorno alla legge di stabilità si gioca lo stesso futuro del governo, un richiamo per la sua approvazione è arrivata dal capo dello Stato, in tal senso si è espressa anche Confindustria con la presidente Emma Marcegaglia che dice il paese va assolutamente governato, una situazione di incertezza penalizza tutti a partire dalle imprese che devono investire e andare avanti. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta ed ora il punto sulle manovre nella maggioranza con Elisabetta Fiorito. Sì, come avete sentito, a sorpresa quindi Umberto Bossi si offre da mediatore tra Berlusconi e Fini per proseguire nella legislatura e dopo il vertice di ieri tutta la Lega è con lui, sentiamo il capogruppo del Carroccio alla Camera, Marco Reguzzoni. La Lega ha ribadito l'assoluta centralità del presidente Berlusconi e dell'alleanza di governo che ha vinto le elezioni per realizzare un programma. La Lega però è anche elemento di stabilità della coalizione, lo ha sempre dimostrato e sempre andrà avanti per realizzare le cose, fare le riforme e risolvere i numerosi problemi del nostro Paese. Sul fronte dei Fignani, L'Avvenire, il giornale dei vescovi italiani, critica la posizione della famiglia del Presidente della Camera. È bizzarro e deludente il futurismo familiare di Gianfranco Fini, si scrive nel giornale della CEI. Da parte dell'opposizione, Antonio Di Pietro continua a spronare il PD per presentare una mozione di sfiducia, in quanto l'Italia dei Valori non ha i parlamentari sufficienti. Sentiamo Di Pietro. Noi dell'Italia dei Valori insistiamo sul fatto che l'unico modo per superare l'attuale stallo sia quello di sfiduciare il governo Berlusconi. Se si riesce si fa una legge elettorale, altrimenti comunque entro questa primavera alle elezioni, e per farlo c'è bisogno di una mozione di sfiducia. Chiediamo al PD, a chi aspetti? Che qualcuno ti dice che hai vinto le elezioni senza che te ne accorgi? E per il momento è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e andiamo alla cronaca. Ha avuto un malore Cosima Serrano, madre di Sabrina e moglie di Michele, entrambi come sapete in carcere per l'omicidio di Sara Scazzi. Oggi avrebbe dovuto essere ascoltata dai carabinieri di Taranto, ma naturalmente l'audizione è stata rinviata. Ancora cronaca, a Milano è precipitato un montacarichi. Non sappiamo ancora effettivamente cosa sia accaduto, abbiamo effettuato semplicemente questa operazione e adesso in posto ci sono gli enti che stanno effettuando i rilievi. Carlo Cardinali è uno dei vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina dopo che un montacarichi con all'interno 3 operai è precipitato dal 5° piano. Un uomo è morto, gli altri sono ricoverati in gravi condizioni. L'incidente intorno alle 9.30 di questa mattina ad Assago, alle porte di Milano, in uno dei palazzi del centro direzionale. I 3 dipendenti di una ditta di Pioltello stavano trasportando un grande e pesante armadio destinato ad un'azienda presente nel complesso. La vittima, Massimo Bertase, di Corogno Monzese, aveva 41 anni. Tra i feriti un operaio albanese di 34 anni, uno ricoverato all'ospedale Humanitas, e un altro italiano originario di Cosenza di 31, ricoverato a Niguarda, dove gli sono state riscontrate lesioni vertebrali. Il sindaco di Assago, Graziano Musella. Ci troviamo di fronte all'ennesima morte sul luogo di lavoro e questo francamente mi addolora. Voi pensate alla persona che esce la mattina, no, e non rientra più a casa perché non funziona un montacarichi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre di crolli si tratta, ma del nostro patrimonio artistico. L'ultimo, come sapete, sabato scorso a Pompei. Questa mattina a parlarne anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. È vero, ha detto, che c'è stato un cambiamento climatico con fenomeni di tropicalizzazione, ma non è possibile che per il fatto che piove un po' di più crolli una parte del patrimonio della nostra storia, come è successo a Pompei, oppure che nel centro di Vicenza negozi e botteghe artigianali siano invase dai detriti e che delle persone possano perdere la vita. Queste dunque le parole di Napolitano. La colpa non è di Bondi, ma delle sovrintendenze. Così il ministro dell'istruzione Gelmini scende in campo per difendere il responsabile della cultura, sempre più sotto attacco per il crollo avvenuto a Pompei. Credo che sia ingeneroso dare la responsabilità a Bondi e usare politicamente questo episodio per attaccare un ministro. Quello che è capitato a Pompei non è il frutto dell'assenza di fondi, è forse una incapacità delle sovrintendenze di badare alla manutenzione, di fare i controlli. E intanto dall'opposizione il PD appronta la mozione di sfiducia al ministro. Si attende però che Bondi riferisca alla Camera domani mattina prima di prendere una decisione definitiva. Gli occhi sono puntati anche sulle mosse di Future Libertà, in grado di spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra in una partita che potrebbe anche andare oltre il singolo di Castero. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A Milano, secondo giorno del Forum delle Famiglie, dove emerge un'Italia a tante velocità per le risorse comunali destinate alle politiche sociali. Ogni cittadino della Valle d'Aosta può disporre ogni anno di 262 euro, quello della Calabria di appena 29. La spesa complessiva è di 6 miliardi 626 milioni di euro. Sono i dati che emergono appunto dalla seconda giornata della Conferenza Nazionale della Famiglia in corso a Milano, e fra tutti spicca il caso Parma, dove un quoziente famiglia è già in fase sperimentale. Il comune ha stanziato 400.000 euro per il 2010. Per fare cosa? Cecilia Maria Greci è la delegata per l'azienda della famiglia di Parma. Abbiamo tolto i gradoni che caratterizzano l'ISE, le tariffe di solito che con lui si vanno a formulare, ma abbiamo instaurato una curva. Quindi tutte le famiglie comunque, anche quelle che non hanno avuto il beneficio del quoziente perché uscivano dalla fascia di reddito massima scelta, hanno beneficiato di questa curva, quindi hanno avuto una tariffa più equa. Famiglia che iscrive il suo bimbo al nido, indipendentemente dalla fascia di reddito, ma che comunque presenta il quoziente Parma, se è composta da due genitori che lavorano e da due figli, ha un 15% di sconto sulla tariffa. Se nella famiglia, oltre ai due genitori, ai due figli, è presente anche un disabile, che può essere un altro bimbo, una persona, comunque un familiare, il beneficio arriva, supera il 40%. E in questo momento ne abbiamo utilizzato una parte rispetto appunto ai servizi estivi e per i servizi legati agli asili nido. Dovremo finire l'implementazione con le mense, i trasporti, per poi passare nel 2011 a tutti gli altri servizi, sino a che a marzo andremo a regime e il quoziente sarà su tutti i servizi comunali. Ed ora sentiamo un po' di musica, perché oggi è il giorno di Lady Gaga in Italia. Lady Gaga, finalmente. La sua macchina da guerra sbarca a Torino alle 21, tutto esaurito quasi, perché l'ultimo esiguo mazzetto di biglietti sarà in vendita nel tardo pomeriggio alla cassa del palazzetto. Data torinese aggiunta in seguito alle richieste milanesi, per cui era stato anche aggiunto un secondo giorno di spettacoli, la star è da ieri all'alba al Golden Palace in via Arcivescovado, hotel da cui non è mai uscita, ma dal quale la definiscono tranquilla e cortese. 10 camere e una suite per una notte sola. Subito dopo il concerto ripartirà per gli Stati Uniti. Solo una concessione, un massaggio nella Beauty Farm. Nel Pala Isozaki 15 camerini a disposizione, ci sono 11 musicisti e 11 ballerini. A disposizione un medico e un massaggiatore e anche del cioccolato torinese. Vietati del tutto macchine fotografiche, registrazioni audio, riprese televisive. Lo show, 4 tempi, 2 ore e 10 minuti. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della visita di Berlusconi in un Veneto veramente in ginocchio per l'alluvione di qualche giorno fa. Ebbene, Berlusconi ha promesso aiuti sostanziosi ed immediati, ha promesso che arriveranno con la finanziaria. E poi il crollo di Pompei. Napolitano ha detto che il dissesto idrogeologico non deve assolutamente giustificare questi crolli. E poi sentiremo invece fra poco che i Nobel per la pace hanno incoronato Roberto Baggio per il suo impegno in nome della solidarietà. Io sono il boss, l'imprenditore, il proprietario del partito dell'amore. Io sono il Cesare, leader mondiale. Io sono il papi, l'utilizzator finale. 7 milioni e 600 mila gli italiani che ieri sera hanno visto la prima puntata di Vieni via con me, molto attesa, il programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano, che con ospiti Roberto Benigni e Claudio Abbado era stato preceduto da moltissime polemiche. In prima serata su Rai 3 Vieni via con me ha raggiunto il 25,48% di share. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello è stata seguita da 4 milioni 850 mila persone, pari al 20% di share. E noi ci facciamo adesso una bella chiacchierata con Giorgio Simonelli, che è docente della Cattolica, opinionista TV, e su Benigni peraltro ha pure scritto un libro dal titolo Datemi un Nobel, quindi chi meglio di lui. Buongiorno Simonelli. Buongiorno, grazie. Allora, intanto cominciamo da questo dato di ascolti. Insomma, ha battuto il Grande Fratello, è comunque in parte una buona notizia, perché gli italiani, se non altro, hanno voluto capire, no, cosa andasse in onda ieri. Beh, è un'ottima notizia. D'altra parte, insomma, era un po' nell'aria, insomma, questo sorpasso. Intanto perché il Grande Fratello zoppicava già da qualche settimana, se non sbaglio è la terza settimana consecutiva che viene battuto. Mi ha sorpreso il fatto che sia stato battuto in maniera così clamorosa, così netta, e questo dobbiamo dire, insomma, è grande merito di Saviano, Fazio e Benigni, insomma, della trasmissione, perché insomma forse insomma tutte le polemiche come sempre paradossalmente l'hanno aiutato, però alla fine poi la trasmissione io credo si sia imposta per i suoi valori, i suoi contenuti, la sua qualità televisiva. Simonelli, sentiamo un altro pezzettino. Questa cosa delle donne, poi è arrivata l'escort di Palermo, l'escort di Bari, l'escort di Velletri, allora ha detto, dice, questa cosa è una vendetta della mafia. Ora io mi ricordo, la mafia si vendica, ha cambiato stile, No, dico, sì, la vendetta della mafia per Berlusconi è così. Saviano, Saviano, ma a te che ti arriva tutte le sere c'è la sfilata di Miss Italia sul canerottolo. Ecco, Benigni, comunque la si pensi, comunque davvero ci ha fatto ridere tantissimo, insomma, si è dimostrato e ha ribadito il suo ruolo di mattatore, ha un po' dominato la scena ieri, che dice Simonelli? Sì, beh, ma questo è normale quando c'è Benigni, io credo che solo la sua presenza fisica così clownesca sia in grado di catturare qualsiasi spettatore. In più c'è questo, che lui ha questa arte straordinaria, ne abbiamo appena sentita una, che è quella del paradosso, cioè dimostrare la paradossalità invece delle cose che qualcuno dice credendo di essere sul serio. Ecco, questo della mafia è straordinario, questo ribaltamento. Sì, no, diciamo che questo momento politico gli offre anche molto il fianco, sì, insomma. Sì, sì. Ecco, no, la cosa che mi ha più colpito però è stata un'altra, è stata l'appello a Sandokan Schiavone, no? Quando gli ha detto, beh, insomma, perché uccidere Saviano? Perché vuoi uccidere Saviano? Perché vuoi rovinargli la vita, impedirgli di andare a cena? Vuoi vendicarti di lui? Scrivi un libro, fai come ha fatto lui. E ha citato Sergio Leone: quando un uomo con la biro incontra un uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è morto. Quello mi è sembrato il punto più alto, anche se devo dire poi tutti i molti minuti in cui ha tenuto la scena sono sempre godibili, perché poi lui ha questi sprazzi, questi spunti. Devo dire che anche la battuta paradossale della socera di Zapatero mi è sembrata geniale. Sì, sì, assolutamente. Sentiamo invece un altro pezzettino della serata di ieri. La democrazia è in pericolo nella misura in cui, se tu ti poni contro certi poteri, se tu ti poni contro questo governo, quello che ti aspetta è un attacco della macchina del fango. Un attacco che parte dalla tua vita privata, da fatti minuscoli della tua vita privata usati contro di te. Ecco, erano le parole, ovviamente un brano, insomma, dell'intervento di Saviano, che non vorrei dire è apparso leggermente più scontato rispetto a Benigni. Sì. Effettivamente metterli insieme, insomma, parlare quando in una serata in cui parla Benigni deve essere sempre molto difficile, questo bisogna dirlo. Sembrato un po' vittima ormai della sua immagine? Sì. In una parte sì, soprattutto nella prima parte del primo intervento, prima che cominciasse la grande narrazione su Falcone, diciamo tutta la teoria della macchina del fango è sembrata un pochettino scontata e già un po' saputa. Devo dire che però che si è riscattato molto in un altro punto. Abbiamo scoperto ieri sera un Saviano comico, anche perché Fazio ha una grandissima spalla. Quando ha fatto l'elenco di tutti gli indizi che portano all'omosessualità di qualcuno nella sua terra, quell'elenco è stato strepitoso, dalla crema solare all'uso dell'ombrello, no, l'ho trovato veramente straordinario. Credo che Saviano abbia, ieri sera abbia scoperto una vena comica che non aveva mai rivelato. Quello è stato uno dei momenti più divertenti e più intelligenti del programma. Simonelli, secondo lei proseguirà questo successo oppure è stato l'effetto della prima puntata che, come dicevamo, insomma, è stata preceduta da moltissime polemiche, allora, anche sugli ingaggi, sui soldi, insomma, anche su questo Benigni è stato molto divertente. L'uno e l'altro, io credo che il successo a questo punto proseguirà, forse non sarà il 25, sarà il 23, sarà il 22, bisognerà anche vedere quali saranno gli ospiti, però a me sembra che ci sia un elemento fondamentale che anche oggi viene sottolineato da Alessandra Comazzi sulla stampa, che c'è in questo programma una grande teatralità, c'è una televisione bella al di là dei contenuti dei protagonisti, c'è una bella messa in scena, in un periodo in cui la televisione era diventata, aveva abbracciato, diciamo, l'estetica della sciattezza, della sciatteria, il Grande Fratello in fondo è questo, è la sciatteria portata in messa in scena, questa messa in scena assolutamente accurata nei tempi, negli interventi, nelle scenografie, nei colori, nelle luci, mi sembra che sia una garanzia di buona televisione al di là degli ospiti e dei contenuti. Grazie, grazie a Giorgio Simonelli, docente della Cattolica ed opinionista TV, per averci un po' decriptato, insomma, il programma di ieri di Fazio e Saviano. Noi ora cambiamo argomento, siamo per il seggio dell'Europa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riteniamo che la riforma dell'ONU debba andare verso una maggiore democratizzazione e una maggiore rappresentatività. Lo ha detto questa mattina il ministro degli Esteri Franco Frattini, dopo che Obama ieri, come sapete, durante il suo viaggio in Asia, aveva lanciato la proposta di un seggio per l'India. E oggi è tappa indonesiana per Barack Obama, ci racconta tutto Gigi Donelli. Sì, buongiorno Piera. E anche in questo viaggio, visto che si parlava di scenografie, ci sono dei momenti importanti e altamente scenografici. Basterà citare il fatto che Obama parlerà nella più grande moschea del mondo. L'Indonesia, infatti, non dimentichiamolo, 225 milioni di abitanti, primo e più popoloso paese musulmano del nostro pianeta. Dopo il famoso discorso del Cairo, dunque, il presidente degli Stati Uniti, continua, riallaccia il dialogo con l'Islam, un paese naturalmente che per Obama vuol dire ricordi personali, cioè infatti vissuto 4 anni tra il 67 e il 71 e dove è arrivato, come dire, in un segno abbastanza turbolento. Infatti stamattina terremoto della scala 5,4 a Giava e eruzione del vulcano Merapi che minaccia anche un po' i suoi piani di volo. Ma per quanto riguarda i dialoghi politici attualmente in corso, proprio in questo momento, con il premier Udoyono, ecco, ancora una volta i temi sono quelli economici, quindi eliminazione delle barriere doganali, in primo luogo l'accesso delle imprese americane al mercato, lo ribadiamo, di oltre 225 milioni di persone. La Cina in questo senso lamenta le iniziative americane, proprio la decisione della Federal Reserve che ha annunciato il programma di acquisti di titoli di Stato per 600 miliardi di dollari, proprio per rivitalizzare la ripresa economica, viene vista con grave preoccupazione dalla Cina che dice gli Stati Uniti colpiscono in questo modo la stabilità finanziaria. Insomma, grazie. Un viaggio con molti spunti. La linea torna allo studio. Grazie, grazie a Gigi Donelli. Ed è stato dato a Roberto Baggio il Peace Summit Award 2010, il riconoscimento che viene assegnato da tutti i premi Nobel per la pace alla personalità che più si è impegnata verso i bisognosi. Baggio sarà premiato venerdì ad Hiroshima. Poter essere presente in questi posti, perché comunque c'è grande sofferenza, c'è grande difficoltà di vita per le persone, per me sarà un'esperienza incredibile. Che Roberto Baggio fosse stato uno straordinario calciatore, uno di quelli che hanno fatto amare questo gioco a milioni di persone, non ci piove. Ora però, dopo questo riconoscimento, bisogna dire anche un'altra cosa, che Baggio ci obbliga a rivedere quello che pigramente si pensa di molti calciatori, cioè che siano solo bambinoni viziati, affamati di ingaggi e top model. No, non è obbligatorio. Baggio dimostra che oltre ai piedi divini si può avere anche una testa pensante e un occhio sensibile, che quando va in tournée vede che oltre agli stadi ci sono anche le favelas, i terremoti, i bambini con gli occhi sgranati e le dittature che non concedono la libertà a simboli di pace come San Suu Kyi. Da quasi 18 anni ed è assurdo, la dittatura militare sia in grado di fare ancora questo, che privi cioè le persone del diritto che tutti gli esseri umani dovrebbero avere, che è la libertà. Bravo Baggio allora, ambasciatore di pace in un mondo che come un pallone non sempre rimbalza dalla parte giusta. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E stamattina primo test di Valentino Rossi sulla Ducati in vista del Moto Mondiale 2011. Ci racconta tutto Dario Ricci. Sì, dopo il maltempo che ha aperto la mattinata, Valentino Rossi è sceso in pista alle 12.20, tuta giallo-nera su una Ducati rossa come tradizione, ma in questo caso in livrea nera per motivi di sponsorizzazioni. Doppia uscita per Valentino, il miglior tempo 1.37.329, ma tempo puramente indicativo, quel che conta sono le indicazioni che il dottore sta dando ai tecnici, ai meccanici della rossa, sulle modifiche, le prime modifiche di assetto. È sceso in pista con un casco con un grande punto interrogativo giallo disegnato da Aldo Drudi, segno appunto che è tutto da scoprire questo rapporto. Oggi e domani i test si continuano nel pomeriggio, poi lunedì prossimo Valentino sarà a Milano per la prevista operazione chirurgica alla spalla infortunata. Per il momento è tutto. Grazie a Dario Ricci, grazie a Roberto Scaltritti in regia. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.